Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Eccoci senza indugi con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio. Lo sapete, un sacco di belle cose ogni sabato pomeriggio, ma siccome cominciamo mezz'oretta dopo per un po' di tempo per lasciare spazio a Dylan Dog, non vi sto a spiegare tutte le cose belle che avremo in queste tre ore, anzi due ore e mezza ormai, perché andremo avanti fino alle 18. L'ultima ora sarà quella di Radio Tube con Daniele Bellasio. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e per i vostri messaggi WhatsApp. Il mio account di Twitter è @MartaCagnola. Il filo conduttore musicale e non solo di questo sabato sarà l'autunno. Autumn in New York. Why does it seem so inviting? È autunno a New York, che sogno. No, io sono a Milano, Enrico Pagliarini è sempre in un luogo misterioso, ma ce l'abbiamo in linea. Ciao Enrico. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sempre in un luogo misterioso, ma si sente sempre benissimo. Chissà dov'è. È molto meglio qui che a New York. Addirittura, dici? Ah, sì. Ah, fantastico. Enrico, allora, autunno, facciamo un po' il punto della situazione. Lo faremo con i libri che ci terranno compagnia in questa stagione, con la musica che ci terrà compagnia in questa stagione, ma siccome abbiamo già parlato della TV, intesa come televisione, che ci terrà compagnia in questa stagione, vorrei fare un po' il punto della situazione anche sul televisore, visto che ogni tanto bisogna un po' capire cosa ci serve per vedere la TV, quali piattaforme, quali, come dicono quelli che parlano bene, quali device. Enrico, facciamo un po' il punto della situazione. Direi che l'unica cosa certa è che serve il televisore, che possibilmente si collega ad internet. Poi magari diciamo anche di stare attenti ai televisori che vengono venduti in questo periodo da qui fino al primo gennaio, perché dal primo gennaio ci sono alcuni obblighi di legge che devono essere rispettati, quindi da qui a là ci potrebbero essere delle offerte molto interessanti, ma che insomma vanno tenute in considerazione. Allora dicevo, l'unica cosa certa è che serve il televisore, perché dopodiché c'è il caos più totale, perché le offerte televisive si sono moltiplicate molto negli ultimi anni, un po' grazie al digitale terrestre, grazie al satellite, soprattutto al satellite, ma negli ultimi anni e direi nei prossimi anni sempre più via internet. Faccio un breve quadro, un po' come si faceva a scuola, uno specchietto dove io ho ricapitolato tutto quello che c'è in offerta oggi. Allora, partiamo dal digitale terrestre. Il digitale terrestre è molto ricco di canali, però devo dire molto povero di qualità, sia intesa come qualità dei programmi che ci vengono offerti, come contenuti, ma anche qualità tecnica, perché purtroppo i canali in alta definizione sono molto pochi. La Rai da poco ha lanciato l'1, il 2, il 3 in HD, Rai Sport 1 e 2, Mediaset ha tre canali in HD e anche la 7, dopodiché c'è molto molto poco. Sul digitale terrestre, se uno vuole pagare, può prendere il decoder di Mediaset Premium e utilizzare quindi l'antenna tradizionale per ricevere tutto il pacchetto premium. Dopodiché direi che non c'è quasi più nulla di interessante. Passiamo al satellite. Qui ovviamente bisogna avere una parabola, uh-huh, e quindi bisogna fare uno sforzo perché bisogna farla installare. E citerei due, perché uno, se pensa a satellite, pensa subito a Sky, l'offerta di Sky, che è un'offerta assolutamente straordinaria, sia in termini di qualità come contenuti, sia in termini di qualità tecnica, perché abbiamo un sacco di canali in alta definizione. Però vorrei citare la piattaforma TVSAT, che è una piattaforma che arriva via satellite, serve anche in questo caso un decoder o anche una cam che va inserita nell'apposito spazio nel televisore. È gratuita, bisogna diciamo pagare questa cam, ovviamente devi essere in regola con l'abbonamento, ma ormai visto che arriva con la bolletta. Siamo tutti in regola. È interessante perché ci sono tutti i canali del digitale terrestre tranne i locali, perché essendo via satellite non abbiamo un'antenna locale, però ci sono ben 13 canali in HD, ci sono anche alcuni canali internazionali, insomma è una bella piattaforma molto interessante. Da poche settimane TVSAT ha lanciato un servizio, però in questo caso bisogna collegare o il televisore o il decoder ad internet, un servizio che si chiama TV On, è un servizio con il quale si possono rivedere i programmi dei principali canali che sono stati inseriti in questa piattaforma degli ultimi 7 giorni. Quindi è una sorta di videoregistratore automatico, uno va, può scegliere, che ne so, 3 giorni fa c'era quel programma, lo puoi rivedere. E qui apriamo il capitolo internet. Ci sono un sacco di offerte, le principali sono ovviamente quelle dei grandi broadcaster, ad esempio cito Sky, che da tantissimo tempo offre per gli abbonati Sky On Demand, ma ultimamente, negli ultimi diciamo due anni, è stato rinnovato lo scorso anno, ha un servizio che si chiama Now TV, che è una piattaforma separata dall'offerta classica di Sky, solo online. È un'offerta diversa, costa, sì. Cioè il prezzo è diverso. E qui apriamo appunto il capitolo online. Su internet si trovano un sacco di offerte. Che cosa serve? Allora, serve un televisore che può essere collegato ad internet, oppure dei piccoli decoder. Ad esempio, nel caso di Now TV di Sky, c'è una piccola scatoletta che è simile alla forse più nota Apple TV. È una piccola scatoletta con la quale io posso accedere a un sacco di contenuti. Cito alcuni servizi che esistono online su internet e che sono molto interessanti. Allora, sistemi per noleggiare film, così come si noleggiavano i film dal videonoleggio sotto casa. iTunes, certo, anche tramite Apple TV, oppure Chili, che è una piattaforma italiana, io la uso molto, mi piace molto. Poi ci sono servizi su abbonamento, paghiamo un abbonamento mensile e vediamo tutto quello che vogliamo all'interno del catalogo di questi servizi. Mi viene da dire Netflix. Esatto, però anche Infinity, certo, che è la piattaforma di Mediaset. E poi ci sono cose ibride come appunto Now TV, oppure Premium Online, oppure Team Vision, che sulla base di un abbonamento ci offrono un catalogo vasto, variegato, anche di contenuti in streaming. Ad esempio, all'interno di queste piattaforme ci sono anche le partite di calcio, se ci abboniamo a quel pacchetto particolare, però tutto via internet. A proposito di internet, cito anche un servizio che è stato rilanciato ultimamente, che si chiama Rai Play. Abbiamo sentito pochi minuti fa anche la pubblicità, certo, su Radio 24, però è un servizio gratuito della TV pubblica, è un buon servizio ed è anche in questo caso una sorta di videoregistratore, ma ci sono anche dei contenuti originali pensati solo per questo servizio. Che ne so, 2 giorni fa c'era un programma che mi sono perso, posso andarlo a recuperare su Rai Play. Allora, una delle belle cose di questi servizi online è che sì, posso vederli sul televisore di casa, ma li posso vedere anche sul tablet, quindi mentre sono in giro sul computer, cioè posso utilizzare questi contenuti tramite internet su differenti terminali, quindi non solo il televisore. Enrico, però tu sei partito dicendo ci sono degli obblighi di legge che entreranno in vigore il 1 gennaio. Già qua ci spaventiamo. Obblighi non per l'acquirente, ma per chi vende. Esattamente. Allora, i televisori che dovranno essere che verranno venduti dal 1 gennaio prossimo dovranno avere 2 caratteristiche principali, cioè la novità è riservata a 2 caratteristiche. Purtroppo devo citare, a proposito del caos, qui aumentiamo ancora il caos perché devo citare 2 sigle che però dovrebbero essere tenute a mente. Che quindi sigle che ci toccherà imparare. Allora, una è DVB-T2. Mm-hmm. Il DVB-T è il digitale terrestre. Ok, DVB-T2 è la nuova generazione del digitale terrestre. La seconda sigla, e poi spiego perché dobbiamo tenerci a mente queste sigle, la seconda sigla è HEVC. Capisco che è complicato. Sì. HEVC è un codec, un sistema per tradurre i segnali televisivi che arrivano a casa nostra. Allora, tutto questo perché? Perché probabilmente, ma non è certo, però probabilmente nel 2020 o 22, qui ci sono ancora delle incertezze, comunque diciamo fra 6 anni grosso modo, potrebbero arrivare dei nuovi segnali via digitale terrestre solo questi televisori saranno in grado di decodificare, quindi di vedere questi segnali televisivi. Quindi se uno comprerà un televisore dal 1 gennaio, sarà tranquillo perché per legge tutti i televisori dal 1 gennaio dovranno avere queste caratteristiche. Però attenzione, perché se uno compra un televisore oggi, oggi non c'è questo obbligo di legge, quindi potrebbero esserci televisori che magari ci vengono offerti anche con degli sconti molto molto buoni, che non hanno queste caratteristiche, che quindi magari fra 6 anni potrebbero non vedere alcuni canali televisivi sul digitale terrestre. Non è un grosso problema, anche perché appunto questa cosa succede forse fra 6 anni, però bisogna saperlo, quindi sinceriamoci di cioè l'importante è che ce lo dicano, perché se ci fanno un'offerta ed è per questa ragione, è giusto sapere che è per questo. Esattamente, perché diciamo il problema è il contrario, cioè se ci vendono un televisore e noi pensiamo che sia un televisore già pronto per il futuro, ma magari invece un televisore che diventa illegale da vendere dal 1 gennaio ci viene venduto a un prezzo pieno, noi sappiamo che questa è una caratteristica importante, diciamo ma questo non ha queste caratteristiche. Anzi, io direi sicuramente se l'offerta è molto buona, sicuramente televisori di questo genere sono una buona occasione per portarsi a casa un buon prodotto ad un prezzo molto molto interessante. Anche perché funzioneranno comunque per i prossimi 6 anni e anche in quel caso forse saranno solo alcuni canali che non si vedranno. Sì, e poi se ci attacchiamo un decoder comunque vanno benissimo, e se li colleghiamo a internet vanno benissimo. Quindi il problema della capacità di questi televisori di vedere contenuti fra 6 anni è un problema effettivamente limitato. Però se appunto un rivenditore ci vende una cosa e non ci dice tutto, non si comporta bene. Quindi se noi invece sappiamo questa cosa e facciamo la domandina e gli diciamo: ma scusi, ma questo televisore ha anche la caratteristica, ha anche il codec HEVC? E sentiamo che cosa ci rispondono. Ok. Grazie Enrico, ci sentiamo il prossimo sabato. Io ricordo il podcast di 2024. Ciao Enrico, al prossimo sabato. Ciao a tutti. Ci ritroviamo tra poco dopo il traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta il sabato del villaggio. E al sabato del villaggio è arrivato anche il momento di collegarci con il nostro gastronauta. Ciao Davide Paolini, ciao Davide. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, siamo pronti in questo sabato che stiamo dedicando all'autunno, perché non è da calendario il primo sabato d'autunno, ma sicuramente dal punto di vista meteorologico e delle temperature sì. In questo sabato abbiamo un tema che avevamo lanciato sabato scorso, che avevamo lasciato in sospeso e che è quanto mai adatto alla stagione. Perché parliamo di tartufo, apriamo le danze, che meraviglia! Apriamo le danze perché proprio 4 ore fa si sono aperte le danze ad Alba, al mercato di Alba, perché è partito oggi ufficialmente il mercato del tartufo. Certo, si sono già trovati, qualcuno li ha mangiati, compreso il sottoscritto, anch'io ho già assaggiato un tartufo, però diciamo che il mercato ufficiale della capitale del tartufo, cioè Alba, è partito d'oggi ed è partito secondo me con un prezzo abbastanza alto, perché è partito con 3.500 euro al chilo. E devo dire che quando si parte così forte, insomma, non si sa dove si arriva. Perché? Perché quest'anno la stagione non è prevista una grande stagione, è prevista una stagione di poca quantità, magari andando avanti ci sarà la qualità, anche se la stagione è stata estesa, almeno in Piemonte, nelle Langhe, fino al 27 novembre. Quindi 2 settimane in più rispetto al passato, quindi ci saranno mercati tutti sabati e domenica appunto fino a novembre. Qualcuno potrà anche mangiare non il panettone a Natale, ma il tartufo a Natale. Devo dire che purtroppo è come l'anno scorso, cioè non sarà una grandissima annata, e qualcuno dice sempre che a un'annata grande del vino corrisponde una pessima annata del tartufo e viceversa, quindi almeno speriamo che sia una grande annata del vino, perché sai cosa manca? Mancano le piogge, perché diciamo il tartufo cresce sulle piogge, ma nelle Langhe è un po' di tempo che non sta piovendo, e quindi magari i produttori di vino sicuramente sono stati molto felici di questo quando diciamo vendemmiavano, ma non quelli del tartufo. Quindi non si può avere tutto nella vita e quest'anno dobbiamo forse rinunciare a grandi tartufi. Ma qualche consiglio in merito ce lo puoi comunque dare, sì, dai. Certo. Cosa... Beh, vi do orientaci un po'. Vi do una serie di posti sicuri dove il tartufo è sicuro. Ad esempio posso cominciare da San Marco, cioè a Canelli alla trattoria San Marco. Perché dico che potete stare sicuri? Perché qui Piercarlo Ferrero, il marito di Mariuccia, che è la cuoca di questo locale storico ormai del tartufo, è il capo dei trifolau, cioè coloro che vanno a cercare i cavatori di tartufo. Quindi il tartufo lì si trova sicuramente quando c'è e si trova il meglio. Poi c'è Mariuccia, la quale sicuramente è una grandissima cuoca, una delle più tradizionali, ma i tagliarin che fa lei e magari mangiandoli anche al tovagliolo. Tu sai cosa sono i tagliarin al tovagliolo? No, al tovagliolo non lo so, spiega. I tagliarin sono una cosa, i plin al tovagliolo. Sì, cosa sono? Bene, i plin al tovagliolo sono appena fatti bollire a cottura perfetta, perché la sfoglia non si spaldi, poi si mettono dentro un tovagliolo coperti e si servono in questa maniera. Quindi è un modo vecchio, contadino, ma straordinario per apprezzare. Quindi se poi uno ci mette il tartufo sopra è a posto, ma anche nei tagliarin della Mariuccia, perché si possono anche acquistare addirittura i tagliarin della Mariuccia. Poi lei fa tantissimi altri piatti, perché come tu sai c'è il riso dove va sicuramente il tartufo, c'è la carne cruda. Io voglio anche azzardare, ci sono le acciughe. Dove ogni volta ci fai qualche sorpresa, quindi acciughe con sopra una tagliato fette il tartufo. Però ora ti faccio il più grande piatto del tartufo. Sì. Si chiama il boccone del gastronauta. Allora si prende del pane, si mette su una padella, diciamo, per farlo diventare caldo, perché il caldo fa esprimere molto più il profumo. Poi ci si mette sotto un gocciolino, ma proprio gocciolino, di olio oliva extravergine, perché anche questo esalta il profumo. Poi si prende il tartufo con quello con cui si taglia a fettine, si sdraia tutto il tartufo sopra, che si ha l'impressione che ci sia la Nutella. In realtà ci sono tante belle fette di tartufo. Beh. Sopra due chicchi di sale grosso e poi si mangia in questa maniera. E secondo me, e secondo il gastronauta, è il modo più straordinario di mangiare il tartufo. Però altri posti vi do ovviamente, vi do altri posti, perché non c'è solamente San Marco a Canelli. Ad Alba, il posto che vi consiglio, perché non voglio farvi spendere tanto, si chiama La Piola, è in Piazza del Duomo di Alba, proprio molto appariscente, e c'è una vetrata anche, si può mangiare anche con l'occhio sul Duomo. E si mangiano cose molto semplici, però diciamo che chi sovraintende tutto è a due piani di sopra uno dei più grandi chef italiani, che si chiama Enrico Crippa, il quale è lo chef del Duomo di Alba, che è un 3 stelle famosissimo in tutto il mondo per la sua cucina molto particolare. Però lì chi vuole andare può andare, per carità, io indico questo posto, però se uno scende sicuramente mangia a un prezzo giusto, sono sempre tutti i piatti tradizionali delle Langhe, e quindi anche qui ci sono i tagliarin, ci sono i plin, c'è la carne cruda, ci sono un po' tutti i piatti fondamentali della cucina piemontese e langarola. Quindi un posto per chi è Alba, chi va al mercato è vicinissimo al mercato, allo splendido mercato di Alba. Ah, volevo dire una cosa del mercato. Sì. Vi prego, andate al mercato, perché una volta che entrate dentro le sniffate non costano solamente il biglietto il biglietto d'ingresso. Quindi uno fa un giro tra i banchi, fa finta di acquistarli, se ne prende uno a uno, se li annusa, e quando esce dice: ah, che bella mangiata mi sono fatto di tartufo. Inebriato perché il profumo è inebriato. Davide, citaci un ultimo posto, perché abbiamo pochi secondi. Allora, quando uscite ad Asti Est, prima di salire verso le Langhe, vi consiglio di fermarvi ad Isola d'Asti, in un posto che si chiama il Cascinale Nuovo della famiglia Ferretto. Bene, qui si mangia veramente alla grande, veramente il cuoco è bravissimo, non solo, oltre il tartufo che ci sarà sempre con dei piatti anche in qualche caso creativi, vi consiglio un piatto da leccarvi i baffi, 1000 foglie di lingua e foie gras, è una roba da urlo, quindi ve lo consiglio, magari prendete il primo piatto di tartufo, un antepasto di tartufo, magari chiedete in giro, forse qualcuno ha anche il boccone del gastronauta, oppure fatevelo per conto vostro, ma fermatevi qui e mangiate anche questo piatto perché è davvero straordinario. Grazie Davide, al prossimo sabato, noi ci ritroviamo dopo ciao, il GR, ciao! Ciao. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il sabato del villaggio. La seconda ora del nostro sabato del villaggio, sempre con l'autunno come filo conduttore. I numeri per contattarci: 349-238-6666 per gli sms e per i whatsapp, 349-238-6666, ma anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola. Di cosa parliamo? Beh, consumi e nuove tendenze, parleremo anche di cambio degli armadi, poi consigli per il fine settimana al cinema, la TV con le grandi serie in arrivo, ma partiamo, ci accompagna Ed Sheeran. Partiamo con i libri. Another day, another life passes by just like mine. It's not complicated. Another mind, another soul, another body to grow. All'autunno, così con questi primi freddi, cosa c'è di più bello che non un divano, un plaid e un bel libro da leggere davanti a una tazza di tè? Cosa ci consiglierà la nostra Alessandra Tedesco? Glielo chiediamo subito. Ciao Alessandra. Ciao Marta, tè verde, biscottini, copertina, l'ideale, soprattutto è se perfetto. C'è una leggera pioggerella, guarda, è l'ideale. Guarda, io ti consiglio per questa settimana, e lo consiglio diciamo a tutti gli adulti, diciamo dai 20 anni in su, perché si tratta di un thriller, e se consiglio io un thriller è veramente una cosa eccezionale, Massimo Carlotto, Il turista, pubblicato da Rizzoli. Massimo Carlotto, insomma, lo conosciamo tutti, il nuarista che aveva inventato il personaggio dell'alligatore, ha inventato un nuovo personaggio che è appunto questo serial killer soprannominato turista, perché cambia città e città. Ma c'è una cosa molto carina, Marta, che piacerà anche a te. Questo serial killer adocchia le donne a seconda della borsa, siano una Birkin, cioè deve essere una borsa particolarmente figa. Lui le uccide, le strangola e poi prende la borsa, perché gli piace poi svuotare il contenuto di una borsa su un lenzuolo candido per scoprire i segreti di queste persone. Ma non finisce qui, qui sarebbe semplicemente un thriller. Questo serial killer, all'inizio del romanzo Il turista, uccide la donna sbagliata, perché è una che fa parte di un'organizzazione segreta di mercenari, quindi si intreccia un thriller con una spy story. Bello, bello, bello. Il turista, Massimo Carlotto, ve lo leggete in due pomeriggi perché la scrittura è veramente scorrevolissima. Consigliato a? Consigliato, diciamo, dai 20 anni in su, uomini e donne, per provare un brivido di emozione. E anche dare un occhiolino alla moda, anche se la settimana della moda è finita. Beh, mi piace. Ma vorrei mica pararci d'amore. Sì, per modo di dire. No, perché leggo amore sulla copertina del libro che hai davanti. Certo, dopo il thriller parliamo un po' d'amore, manco per sogno, perché Alain de Botton era quello che aveva scritto Esercizi d'amore. Adesso è in libreria con Il corso dell'amore, romanzo pubblicato in Italia da Guanda. Lui non si sofferma né sull'inizio di una storia d'amore, né sulla fine, ma sul carburante, che è la cosa più problematica. E attraverso questa storia romanzata fra questi due protagonisti, Rabi e Kirsten, arriva a delle conclusioni, cioè che la persona giusta non esiste, è una nostra invenzione, quindi l'amore romantico non esiste. Ognuno dei due protagonisti si sente trascurato dall'altro, crede di fare di più dell'altro, eccetera, non comunicano, c'è il silenzio, come dire. E, tutto sommato, non me la sento proprio di dargli tantissimo torto. E poi soprattutto dice che non sappiamo affrontare, diciamo, le difficoltà e fuggiamo. Prima era diverso, ma nello stesso tempo soffocante. Magari si rimaneva all'interno di un rapporto per non affrontare determinate difficoltà. Alain de Botton, Il corso dell'amore, Guanda, lo consiglio. Io direi da 30 a 35 anni in su, perché secondo me si capisce di più il durante delle relazioni di lungo corso. Ok, mi piace come idea. E quel librone che hai davanti? Mamma mia, te lo faccio sentire alla radio, perché è bellissimo. Io sono appassionata di Guinness dei primati, tutte queste robe qua, e mi piace moltissimo il libro dei fatti, che viene pubblicato ogni anno da ADN Kronos Libri, e questo è del 2016. Ci sono naturalmente, non so, scegli uno stato, c'è la popolazione, l'economia, tutti i dati che vuoi. Per esempio, per quanto riguarda i libri, ci sono naturalmente riportati tutte le statistiche, l'indice di lettura di qua, di là, diviso per regioni, ma ci sono delle bellissime domande all'inizio. Per esempio, all'inizio della sezione cultura e linguaggio, di che nazionalità è la vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2015? Hai tre chance: bielorussa, cilena, giapponese, anzi sono quattro, turca. Allora, io avrei sbagliato, avrei detto russa, ma siccome non è nelle scelte, è bielorussa. È bielorussa, è bielorussa, assolutamente. Sì, me lo ricordo. Svetlana Alexievich. Bielorussa. Sì. Bielorussa. Oppure, per esempio, se vai a vedere nella sezione viaggi e curiosità internazionali, dove si trova l'arcipelago di Anguilla, sì. Africa, America, Asia, Oceania. Secondo me America, perché nei Caraibi, credo. Non lo so, perché la soluzione è a pagina 960 del Il libro dei fatti 2016. Senti, ma a proposito, hai detto Nobel per la letteratura, ma ancora niente Nobel. E questo è un anno strano, sai, perché in genere il Nobel per la letteratura non ha un giorno prefissato. Ogni anno decidono in che data darlo, ma casualmente è il famoso giovedì della settimana dei Nobel, dove non ha, il giorno nel quale non assegnano nessun altro Nobel. Questa settimana invece niente. E poi la settimana si chiude poi il lunedì con il Nobel per l'economia. Quest'anno, mistero dei misteri, è stato rinviato la settimana successiva. Quindi noi giovedì prossimo sapremo chi è il Nobel per la letteratura. Come sempre, io spero in un nome pronunciabile, sì, conosciuto, perché vi assicuro che quando bisogna dare la breaking news in quel momento, se non lo conosci e se è un nome difficile da pronunciare, vai un po', cioè Wikipedia non è tanto d'aiuto in quel momento. No, anzi, poi magari c'è qualche buon tempone che inserisce qualche notizia sulla quale mai fare mai molta attenzione. Staremo a vedere. Per ragazzi, beh, già questo libro dei fatti potrebbe essere divertente, ma non per i più piccoli. Guarda, io gioco con i miei nipotini al gioco del vocabolario, cioè apro il vocabolario a caso, scelgo una parola e dico: la conoscete, non la conoscete? Loro hanno 9 anni. Si può fare anche col libro dei fatti, no? Per esempio, sai qual è la capitale di Cippalippa? E vedi, può essere un gioco divertente da fare con Cippalippopoli, loro. Cippalippopoli, ovviamente. E per restare in tema di bambini, a questo punto ti consiglio, sono pubblicati da Il Battello a Vapore, che insomma fa parte della casa editrice PM, si occupa di bambini, sono dei libricini che insegnano l'inglese, English on board, per i bambini, primo livello, secondo livello, terzo livello, sono veramente easy, lo dico in inglese così sono è più bello. Sono proprio carini. E guarda un po', il terzo libro del terzo livello è Shops, negozi. Ah, interessantissimo. Ci piace tanto, lo apriamo? Sì, no, vestiti non se ne parla. Sì, no, hat, cappello, ship, nave, perché tu quando esci il sabato pomeriggio vai a comprare una nave? Sempre. Tutti i pomeriggi. Però c'è anche pan o pen, padella? Ah, la pan, sì. Pan. Vabbè, insomma, faranno shopping i bambini imparando tutto con English on board. Età più o meno? Anche dalla prima elementare, direi, perché i bambini ormai iniziano a studiare l'inglese dalla prima elementare. Perfetto. Alessandra, l'ultimo consiglio, quello del cacciatore di libri. Cacciatore di libri, questa sera, mi raccomando, non perdetelo alle 22, perché c'è il mitico Massimo Carlotto che ci racconta tutto del libro che abbiamo citato all'inizio, Il Turista, il nuovo serial killer. Attenti alle vostre borse. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Il sabato del villaggio. Estratto che hanno diffuso sui social i Rolling Stones. Hanno annunciato dopo un bel po' di anni il loro nuovo album e saranno, come sentite da questo primo estratto, dei classiconi del blues. Quindi è uno dei grandi album che aspettiamo per la prossima stagione, autunno, ma anche andiamo verso l'inverno. E per sapere tutto quello che ci offrirà nelle prossime settimane la musica, torniamo finalmente a collegarci dopo un po' di tempo con una delle nostre super esperte, critico musicale e autore televisivo, Chiara Di Giambattista. Ciao Chiara! Ciao Marta, ciao a tutti! Allora, ricordiamo subito il tuo account di Twitter per chi volesse trovarti dappertutto, @ChiaraDiGiamba1 con il numero. Chiara, allora, Rolling Stones, primi di dicembre. Il 2 dicembre arriva Blue e Lonesome, che è un ritorno alle origini, perché questi signori meravigliosi di una età considerevole, siccome non hanno voglia di invecchiare e chi li ha visti dal vivo sa di cosa parlo, hanno deciso di ritornare alle origini. Dopo aver esplorato tutta la musica possibile e immaginabile nella loro carriera confinata, hanno deciso di ripartire dall'inizio e ritornano al blues, che è quello un po' da cui loro sono partiti, sono nati, se qualcuno si ricorda i primissimi brani. E sarà un disco, loro giurano, sorprendente, e noi diciamo che gli crediamo assolutamente. Incredibilmente, quando poi si parla di questi grandi artisti, dire che questo disco è stato registrato in soli 3 giorni fa quasi impressione, nel senso che un lavoro così mastodontico, ma con dei musicisti così grandi, effettivamente registrato solo in 3 giorni, vuol dire che avevano proprio l'urgenza di fare questo disco. La cosa meravigliosa è che sono avvalsi di grandi collaborazioni, ma ce n'è una in particolare che si troverà e potrete ascoltare in 2 di queste 12 tracce, che è Eric Clapton, che si trovava proprio là vicino nello studio accanto a registrare un suo disco, e dice: vabbè, ma fammi andare un attimo nello studio degli Stones, che ci vado a mettere così 2 note di chitarra, sai, tante volte ne avessero bisogno. Che dire, e che quindi, dire. Capisci che già solo questo. Tra l'altro i Rolling Stones in questi giorni stanno partecipando a questo Desert Trip Festival insieme a Bob Dylan, Roger Waters, Neil Young, The Who e Paul McCartney, che è questo mega concerto di super big della musica dalle parti di Los Angeles. Insomma, nei prossimi giorni sicuramente usciranno foto e clip video e sarà da andare a vedere. Chiara, rimaniamo sui classiconi e sugli anzianotti che non invecchiano mai, perché ho sentito parlare di un ritorno di Barry Gibb. Per me è un colpo al cuore. Esce in questi giorni il nuovo disco di Barry Gibb, 70 anni, insomma, diciamolo anche lui, però ovviamente tutti lo ricordano per i brani classici con i suoi fratelli, con i Bee Gees, Sabato Sera, Deep Is Your Love, Night Fever, More Than a Woman. Insomma, diciamo che di successi in valigia ce ne ha parecchi. Adesso esce questo nuovo disco che si intitola In The Now, ed è forse un disco un po' nostalgico sicuramente. È un disco in cui lui racconta molto di se stesso, racconta anche forse per la prima volta in maniera profonda il grande dolore per la scomparsa dei gemelli Morris e Robin, che effettivamente, dice, hanno distrutto un po' tutta la nostra famiglia, e anche quando è morto anche l'altro fratello Andy. Quindi insomma, effettivamente la vita di quest'uomo è stata travolta dagli eventi, ma lui è un altro di quelli della vecchia scuola che, quando poi sente il fuoco sacro dell'arte, della musica, non riesce a fermarsi. E lui dice di aver ritrovato questa voglia di fare quando all'ultimo Glastonbury Festival ha suonato con i Coldplay, e invece di avere accanto i fratelli ha potuto avere accanto i suoi figli Steven e Ashley, e insomma, e insieme a loro ha scritto le tracce di questo nuovo disco. Insomma, quindi effettivamente ci sono dei brani anche che sono dei tributi ai suoi fratelli, ed effettivamente è un disco che, come dici tu, noi che amiamo molto i vecchi leoni, sarà sicuramente da ascoltare. Chiara, giovani leoni o leoni un po' più giovani, c'è qualche uscita straniera ancora da segnalare prima di passare agli italiani? Assolutamente, io ti devo dire che sono rimasta folgorata dal pezzo di Bruno Mars appena uscito. Del disco non si sa moltissimo, si sa soltanto che uscirà il 18 novembre, ma questa 24 Karat Magic è una bomba d'orologeria, io lo amo profondamente, l'ho visto dal vivo ed è veramente travolgente, trascinante, andatevi a vedere il video e non riuscirete a stare fermi sulla sedia perché è una cosa pazzesca. Insieme a lui in questo periodo è uscito intanto il singolo di Robbie Williams che è Party Like a Russian, che anticipa questo disco di inediti che uscirà il 4 novembre, che si intitola Heavy Entertainment Show, e devo dire, insomma, da Robbie ci aspettiamo grandi cose. La cosa che effettivamente forse non si aspettava neanche lui è che questo Party Like a Russian avrebbe, come dire, creato un po' di problemi a livello diplomatico, perché i russi si sono un po' arrabbiati. Ma va. C'è stato del disappunto, perché soprattutto dopo aver visto il video vi potrete rendere conto che, diciamo, c'è una parodia anche un po' eccessiva, e in molti hanno visto una parodia proprio di Putin, tanto più che lui a un certo punto dice: io sono un moderno Rasputin, e questo Rasputin sembra proprio quasi volerlo citare, ma diciamo che ha avuto grosse proteste da parte dei russi. Lui naturalmente ha smentito, non riguarda assolutamente Putin, state tranquilli, era soltanto un gioco, volevo scherzare, però secondo me sarà difficile che lui si esibirà in Russia a breve, ecco, mettiamola così, diciamo che avrà qualche difficoltà. E l'ultima che ti dico sarà Lady Gaga, che è uscita il 21 ottobre con questo suo disco Joanne, che effettivamente è ispirato alla sua storia personale. Secondo me sarà una Lady Gaga molto più introspettiva rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, che sembrava molto più, tra virgolette, non superficiale, ma insomma più leggera. Racconterà insomma effettivamente questo titolo Joanne, ispirato al nome della sorella di suo padre, che è scomparsa a 19 anni, ed è comunque il secondo nome di lei, che lei si chiama Stefanie Joanne Angelina Germanotta all'anagrafe, e quindi effettivamente già dice che parlerà molto di se stessa e dirà la cosa che ha detto in anteprima è: racconto quello che mi manca di più, cioè le relazioni umane, e ci sarà molto da ascoltare secondo me. Artisti italiani, Chiara, ci sono un sacco di uscite nelle prossime settimane. Sì. Devo dire, ci sarà l'imbarazzo della scelta. Io ti parto subito, partiamo forti, partiamo con il rock. Sta uscendo in questi giorni il nuovo singolo di Litfiba, che si intitola L'Impossibile, e che anticipa il nuovo album di inediti che si chiamerà Utopia, che invece uscirà l'11 novembre. Diciamo che è un po' come è nella linea dei Litfiba, sarà un disco anche di grandi proteste. Loro dicono che nell'Utopia dei Litfiba tutto è possibile e l'impossibile non esiste. Insomma, loro devono molto al rock, ma devo dire che anche loro, come parlavamo prima dei vecchi leoni, sono quelli che non si sono mai stancati di fare rock, ed effettivamente hanno voglia anche di tornare sui palchi, e torneranno nella nuova stagione a primavera a farci sentire le loro vibrazioni, quindi noi li aspettiamo con grande affetto. Mentre invece un altro che noi aspettiamo, devo dirtelo, confesso, io non vedo l'ora che esca il nuovo disco di Tiziano Ferro, oh, te lo devo sì, dire, perché anch'io. La copertina è bellissima. La copertina è meravigliosa, vi prego andatevela a cercare, in radio non abbiamo la possibilità di mostrarvela, ma vi prego andatevela a cercare, perché lui ha praticamente Hollywood ai suoi piedi, e già questo sì. Mi basti. Lui è meraviglioso, con un abito elegantissimo, con una faccia anche un po', se vogliamo dire, simpaticamente strafottente, con uno sguardo un po' così, e lui, insomma, il 2 si intitolerà Il mestiere della vita, e già questo ci fa forse presagire che ci saranno anche molte canzoni, come ci ha sempre abituato, che ci toccheranno il cuore, questo diciamoci la verità, insomma. Già ha annunciato grandi concerti negli stadi che saranno nella prossima estate, io ci sarò, se vuoi andiamo insieme. Marta, ma per forza, siamo già lì. Tra l'altro altri concerti li ha appena annunciati Ligabue, anche lui, poi nuovo album a breve. Assolutamente, Made in Italy, che uscirà il 18 novembre, Made in Italy è stato anticipato da G come Giungla, che effettivamente pezzo che sta insomma spopolando ed è in cima a tutte le classifiche, perché un pezzo effettivamente anche lui di grande, anche Ligabue secondo me è tornato in grande spolvero come era un po' agli inizi. Lui è sempre stato uno che all'inizio che parlava per la gente, che si faceva portavoce magari dei malesseri delle persone, era uno del popolo. Oggi è tornato a dal suo punto di vista, forse privilegiato adesso, comunque a voler sollevare un po' il tappeto e vedere cosa c'è sotto di tutto quello che non va. E devo dire che nel singolo Oggi come giungla non fa sconti a nessuno, quindi ci è andato giù pesante. Quindi mi aspetto anche qui un Ligabue veramente in grande forma. Tra l'altro ci sono persone che hanno comprato i biglietti per i concerti dei Coldplay di Ligabue e di Tiziano nello stesso giorno e hanno dovuto chiedere mutui infiniti. Sì, assolutamente. Ti ho interrotto perché so che dobbiamo parlare anche di donne. Sì, ce ne sono. Guarda, le ultime due donne me ne sono lasciate per Dulcis in fondo, sì. Allora, abbiamo parlato di uomini rock. Io devo dirti che una vera, grande combattente è Fiorella Mannoia, che appunto anche lei, come ha fatto Tiziano Ferro, ha svelato la copertina del suo nuovo disco combattente che uscirà il 4 novembre ed è una sorta di Sgt. Pepper 2.0, non so se tu l'hai vista effettivamente, ha questa divisa un po' con questi alamari, insomma un po' autorevole, non autoritaria, ma insomma con uno sguardo molto fiero. E il singolo che è già uscito, io ho trovato il video di una poesia incredibile, molto bello, effettivamente ci fa sperare nel meglio. Lei nella presentazione dice: tutti combattiamo per un'idea, un amore, un'ingiustizia, un traguardo, in generale per il diritto di essere felici. E questo credo che sia assolutamente la cifra di Fiorella, soprattutto negli ultimi anni, che per chi segue anche le sue pagine sui social si è sempre ultimamente fatta portavoce di anche problematiche importanti. Io la trovo veramente molto coraggiosa. L'ultima, veramente Dulcis in fondo, è Giorgia. Ah, abbiamo già sentito il suo singolo in questi giorni, fortissimo. È finalmente tornata. Sentivamo molto la mancanza della sua voce, perché Giorgia forse è la voce più internazionale che abbiamo. Quante volte abbiamo detto se Giorgia fosse nata in America sarebbe stata Whitney Houston, effettivamente, perché lei ha questa vocalità pazzesca che ti trafigge, ti passa attraverso. E Oro Nero, che è il suo nuovo singolo, insomma, non ha disatteso le attese, insomma, le aspettative. Diciamo che il 28 ottobre uscirà anche il nuovo CD, che si intitola anche questo Oro Nero come il singolo, e lei si è avvalsa insomma della collaborazione di Michele Canova, che l'ha sempre affiancata negli ultimi anni. E il testo di questa canzone, di questa Oro Nero, che stiamo sentendo moltissimo in radio, sono di Emmanuel Lo, e lei, devo dire, la trovo, non so, forse più ispirata che mai. Credo sia un momento assolutamente di grazia per lei, e ci racconta delle cose anche senza, insomma, anche senza dirle esplicitamente, dall'idea di una donna con un vissuto e con una consapevolezza sicuramente maggiore rispetto a quella che abbiamo conosciuto negli anni passati e che comunque ci aveva sempre stravolto il cuore con la sua voce. Parlano di te che non hai regole, la gente parla quando non ascolta neanche. Allora Chiara, ti salutiamo proprio con Giorgia Chiocciola, Chiara di Giamba 1, così seguite Chiara in tutti i suoi spostamenti, perché segue anche un sacco di eventi, di concerti in giro, non vi dico, ma anche questo fine settimana è andata a seguire delle cose interessanti, se la seguite su Twitter lo scoprirete. Grazie Chiara, al prossimo sabato del villaggio con noi, ti rivogliamo presto. Perfetto, grazie mille, ciao Marta, ciao a tutti. Il sabato del villaggio. Stammi bene, Mel. Ciao, Carletto. A più tardi, Chloe. Max, a stasera. Cosa pensano i vostri animali domestici? Oh, mi manca moltissimo. È tornata! Il cellulare. Oh, mi manca moltissimo. Di cosa parlano? Ciao, come va? Enchanté. E cosa fanno quando non siete a casa? Programmi per oggi? Guarda i miei piani, sono spavanzati qui. Forse lo avete riconosciuto dal trailer, è uno dei film più attesi della stagione perché ne abbiamo visti dei pezzettini da mesi. Le anticipazioni circolavano in rete davvero da tanto tempo, ma finalmente è uscito. Chissà se vale la pena vederlo. Pets, lo chiediamo al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Diciamo che la pensano così parecchie centinaia di migliaia di spettatori americani. Subito il film più visto in Italia dal primo giorno di programmazione, è uno sicuramente dei successi maggiori, diciamo, non Disney per quanto riguarda l'animazione, ma c'è molto Disney dentro questo film, secondo me. Non è che quell'immaginario sia del tutto svanito, però il risultato è molto gradevole. Pets si fa assolutamente guardare, forse con qualche elemento di discontinuità per un film che sicuramente può mettere davanti tutta la famiglia da zero, diciamo da zero no, forse da 3 a 99 anni, tutti davanti allo schermo a vederlo. Hai detto dai 3 ai 99 anni, e quando hai 17 anni, beh, questo ovviamente è il titolo del film di André Téchiné che è nei cinema questo fine settimana. Quando hai 17 è dura, perché è un'età sempre molto molto difficile, con chi ti spia, un pochino vorrebbe sapere meglio, e sono spesso i genitori, vorrebbe sapere tutto della tua anima, tu vuoi invece volare per i fatti tuoi, è quello che succede un po' in un villaggio di montagna nella Francia sud-occidentale a due ragazzi, due compagni di classe, Damien e Tom, si odiano e si picchiano quasi continuamente. Importante sarà il ruolo della madre di Damien, che è una dottoressa ed è anche la dottoressa, il medico della famiglia di Tom, per cercare di mettere insieme queste due unità e farle esplodere nel loro potenziale, proprio perché è un po' il messaggio del film, è dentro un'amicizia che poi si può davvero dare il massimo di se stessi. Questo è un film portato avanti molto bene da un nome che, insomma, non esiterei neanche a definire un maestro del cinema francese, e soprattutto con dei toni drammatico noir quasi in tutta la prima parte, per buona metà del film, che ti fanno pensare che stai assistendo a un giallo, e questo sicuramente è uno dei punti di forza di un film che mi sento vivamente di consigliare. Franco, potrei farti la domanda retorica, che è: qual è l'uscita italiana della settimana? Però certo, ne abbiamo parlato già molto a Radio 24, ne abbiamo parlato nei giornali radio, insomma sappiamo che il film della settimana per quanto riguarda le uscite italiane è quello di Roberto Faenza. Vale la pena vederlo? La verità sta in cielo? Assolutamente, è la settimana della verità sta in cielo, il film che Roberto Faenza dopo 5 anni di lavoro ha dedicato al caso di Emanuela Orlandi. Roberto Faenza ha messo dentro un film molto molto documentato, con grande attenzione ai particolari che emergono dalle sentenze, da tutta la parte giudiziaria del caso, e sicuramente rinfocolando le polemiche. Anzi, vi preannuncio già un Roberto Faenza molto molto tonico, non perdetelo alle 18 alla Rosa Purpurea, quindi vi consiglio davvero di andare a vedere il film e di starlo ad ascoltare fra poco. Dunque, a tra poco Franco, e anche al prossimo Sabato del Villaggio. Ciao. Ci sentiamo Marta, ciao. I'm ready to wage a war without end against you. They chose a pope they didn't know, and today they began to understand. What do you intend to do? Revolution. E questi sono alcuni secondi di questa The Young Pope. Ne abbiamo già parlato un po' perché ci aveva incuriosito prima che la svelassero alla Mostra del Cinema di Venezia. Lunedì ci sarà un'altra grande presentazione alla stampa a Roma, perché sta per arrivare su Sky questa serie, che però sta già facendo moltissima notizia, e questa settimana ne ha parlato il Wall Street Journal. The Young Pope, cioè il giovane papa, rompe le tradizioni della televisione italiana. E ne parliamo con un altro dei nostri amici del Sabato del Villaggio, Gabriele Niola. Ciao Gabriele. Ciao Marta. Allora, a te com'è sembrata questa Young Pope? Visto che abbiamo visto già qualcosa, abbiamo già visto i due primi episodi a Venezia, lunedì forse verrà svelato qualcosa di più a Roma, e poi a fine ottobre arriva in TV su Sky. È veramente un incrocio tra il personaggio protagonista di House of Cards, cioè il presidente degli Stati Uniti di Kevin Spacey, che qui invece è il papa di Jude Law, però un personaggio da grande intrigo politico che desidera, brama il potere, che vuole fare delle cose ed è disposto a tutto per mantenerlo, e tutta quell'altra serie invece di piccoli intrighi, personaggi secondari che c'è in Il Trono di Spade, persone che tramano per ottenere anch'esse il potere, che hanno un loro piano, delle loro intenzioni, e tutte molto abili politicamente. Ecco, unendo queste due cose con l'umorismo di Paolo Sorrentino si ottiene Young Pop. Beh, una ricetta che mi sembra perfetta. Tra l'altro il Wall Street Journal, come aveva fatto già Variety qualche mese fa e ne avevamo parlato, parla di questa nuova grande tradizione della televisione italiana e cita ovviamente Gomorra, cita ancora Romanzo Criminale e poi cita le prossime serie che saranno 93, che è il seguito di 1992, 000, basata sul romanzo, sul libro di Saviano sul traffico di cocaina, e cita Calciopoli e i diavoli sulla crisi economica. Quindi arrivano un sacco di belle cose nelle prossime stagioni. Mi pare che però stiamo parlando di tutti i prodotti da TV a pagamento, cioè qui il grande assente è la televisione generalista, che invece quest'anno vuole, ha delle velleità di grandi serie, perché sappiamo che la Rai vuole partire con I Medici, che è una produzione internazionale ma italianissima, che vorrebbe essere un po' come i Borgia, vorrebbe essere, no, quelle grandi serie americane, eppure non se ne fa menzione. Allora, Dustin Hoffman, Richard Madden, Stuart Martin, Guido Caprino, Miriam Leone, che poi insomma è stata protagonista anche di 1992, Sara Felberbaum, Fortunato Cerlino da Gomorra. Mi sembra che sulla carta anche questo Medici, del quale abbiamo già sentito per ora solo la canzone della colonna sonora, ci possa promettere qualcosa di buono. Insomma, anche la Rai allora comincia a giocare forte. Non lo possiamo sapere, però di certo ha le intenzioni, cioè diciamo che forse un po' si sono stufati di sentire questo ritornello che solo Sky, di certo fino ad oggi solo Sky ha fatto qualcosa di bello, di esportabile per davvero. Noi sappiamo che Gomorra, come già Romanzo Criminale, è vendutissimo e amatissimo all'estero. Ora, questo Young Pop è una produzione americo-italiana, nel senso che c'è tanto Sky quanto c'è HBO, certo, che è il canale del Trono di Spade, per dirne uno proprio. In realtà loro sono stati il canale più forte americano per le serie TV moderne, per cui è una cosa pensata per il pubblico straniero e pensata chiaramente per essere al livello di tutto il resto che si fa. Forse anche adesso poi sai cosa c'ha questa serie che io le vedo abbastanza, le serie americane, sono bellissime. Questa c'ha una cosa che però io non ho mai visto nelle serie americane, cioè, come ho detto, è una serie di grande tensione, grande intrigo, grandi dialoghi, come sono anche loro, ma è tanto da ridere, e loro non mescolano mai le due carte, o sono serie comiche, è una cosa, o sono serie seriose. Le due cose insieme non le fanno, invece Young Pop le fa. Devo dire che per noi italiani c'è anche un punto in più, perché ci fa molto sorridere Silvio Orlando, che è un stupendo, personaggio irresistibile. No? Irresistibile, tipicamente sorrentiniano, è un personaggio un po' infame nel fisico, no? Perché Silvio Orlando anche accenta questa sua componente un po' da intrigo, un po' andreottiana, no? Sì. Questo fisico è però molto potente, molto ridicolo e molto potente insieme, che è quello che almeno io ho visto sulle prime due episodi, nei primi due episodi si contrappone a questo papa che invece è bellissimo, atletico, intelligente, cioè a tutte. E fumatore. E il fumatore, ma non fa fumare gli altri, che lui fuma negli uffici vaticani, e quando gli altri si provano a accendere le sigarette, lui dice, mi dispiace, non potete fumare, perché Giovanni Paolo II ha emanato una legge per la quale non si può fumare negli uffici vaticani, e tira una boccata con le sue. Sì, infatti, devo dire che debutterà venerdì 21 ottobre su Sky Atlantic, The Young Pope, grande curiosità, appunto, a Venezia sono stati mostrati i primi due episodi, credo che anche lunedì per l'anteprima romana saranno i primi due episodi a essere mostrati. Esattamente, sapere il seguito dobbiamo aspettare ottobre. Grandissima ahimè curiosità. Sì. Ahimè sì, ed è come anche quando accade per Gomorra, sono quelle cose per cui devi veramente aspettare, cioè non c'è come queste cose che c'è chi se le pirata, c'è chi più avanti sugli altri. Qui siamo tutti allo stesso livello, dobbiamo effettivamente aspettare che escono e basta. 10 episodi, un'ora a episodio, quindi insomma il classico formato delle serie di Sky. Guarda, ti dirò una cosa, noi diciamo sempre che queste serie moderne sembrano proprio dei film, no? È una cosa che ci ripetiamo sempre, sembrano proprio dei film. In realtà secondo me no, cioè non è vero che sembrano dei film. In particolare però questa per davvero sembra un film, perché tu sai che le serie hanno questa caratteristica che te ne vedresti tantissime, cioè ti vedresti episodi a rotta di collo, alle volte anche 4-5 episodi in un giorno, se proprio hai il tempo e se ti piacciono, sono leggere in questo senso, non ti pesano. Mentre invece Young Pope, che io l'ho visto, è molto bella, mi è molto piaciuto, ma ho sentito un po' la sua pesantezza, come sono pesanti e barocchi i film, per cui dopo 2 ore, cioè dopo 2 episodi, io vorrei prendermi una pausa, ecco, magari è non vero. Volevo vedere subito il terzo. È vero, in sì, questo sì. È proprio come un film, tipo un'altra grana, un'altra pasta, un'altra grandezza. Beh, devo dire che ci sarà appunto questo duello Medici su Rai 1 e Young Pope su Sky, vedremo come Rai 1 inizia ad affacciarsi al grande mercato internazionale. Commissario Montalbano, a parte che era stato comunque, è stato comunque molto venduto, però con questo tipo di serialità. I Medici arrivano il 17 ottobre, quindi saranno giorni molto molto molto intensi. Ci risentiamo e magari ne parliamo insieme, Gabriele, vediamo un po' sì, come... Attenti a una cosa, io già so come va a finire qua, io già lo so la RAI o la produzione dei Medici si vanterà di aver fatto molti più ascolti di Young Pope, solamente che la RAI chiaramente è gratuita e Young Pope va su Sky che è a pagamento, molti meno utenti, quindi già sappiamo chi farà più ascolti, però non dobbiamo valutarle per quello. Non dobbiamo cascarci in questo gioco che le TV fanno regolarmente, non sarà solo una questione di Rai o di produzione di Young Pop, perché lo fanno sempre. Grazie, grazie Gabriele Niola, ci ritroviamo presto, allora ci ritroviamo e ne parliamo, ok? Dai. A presto, grazie Gabriele, noi ci ritroviamo tra poco dopo il traffico. Il sabato del villaggio. Under frozen souls, hungry hands turning soft and old. My hero cried as we stood out there in the cold. Like these autumn leaves, I don't have nothing to hold. E rimaniamo in atmosfera autunnale, l'autunno ci sta tenendo compagnia in questo sabato pomeriggio perché è un po' davvero il primo weekend in cui sentiamo l'autunno e un po' di autunno lo respiriamo anche in questo spazio del sabato del villaggio dedicato ai consumi con Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Da cosa partiamo? So che partiamo da un appuntamento anche quello abbastanza stagionale, quindi non ci allontaniamo tanto dal tema. Ebbene sì, perché anche nel mondo dei consumi ci sono degli appuntamenti fissi e questo è un appuntamento annuale, stagionale, perché arriva sempre d'autunno, è uno di quegli indicatori che per così dire, Marta, tra le righe dei numeri ci raccontano un po' le abitudini, i prodotti anche che popolano un po' la nostra quotidianità. L'appuntamento è quello con la classifica di Interbrand sui 100 brand più potenti al mondo, cioè quelli con il maggior valore economico, una classifica che è giunta ormai alla sua 17ª edizione. Quest'anno a trionfare è ancora Apple, con un valore che sfiora 180 miliardi di dollari, Marta. Non indifferente. E ad essere confermato in realtà non è solo il primo posto, ma è tutto il podio, con Google al secondo posto e Coca-Cola al terzo. Ma ci sono anche delle sorprese comunque nella classifica. Ce le facciamo raccontare da Manfredi Ricca di Interbrand. Buon pomeriggio, Manfredi. Buon pomeriggio a voi. Allora, abbiamo detto Apple e Google, quindi i brand in qualche modo simbolo della rivoluzione tecnologica. Beh, direi di sì e anche forse qualcosa di più, perché è probabilmente una rivoluzione più ampia quella che brand come questi impongono o consentono, perché di fatto sono brand che ci permettono di fare di più, di farlo meglio, di farlo in modo più semplice, in modo spesso più economico, e quindi stanno cambiando ogni lato, ogni aspetto della nostra vita, dal modo in cui acquistiamo, al modo in cui scegliamo, viviamo, lavoriamo e ci riposiamo e ci svaghiamo. Sono brand che in realtà più che la tecnologia, più che offrire tecnologia, sfruttano la tecnologia per offrire dei benefici molto ampi, che sia il condividere di Facebook, che sia il ricevere di Amazon o il sapere di Google, e appunto ci permettono di farlo in ogni istante, in ogni momento, ed è questo quello che permette loro di crescere, cioè il fatto di trasformare tecnologie estremamente complesse in brand estremamente semplici con un unico punto di accesso e che diventano partner insostituibili nella nostra quotidianità. Quando entrano nuovi marchi significa che abbiamo nuove fascinazioni o nuovi bisogni. Che novità ci sono? Ci sono due novità quest'anno. Una è una novità che è portata da un brand in realtà che ha alle spalle una storia gloriosa e lunga come Dior, che entra quest'anno per la prima volta in classifica ed è uno di quei casi in cui brand con una certa anzianità di servizio sono rilevanti per le nuove generazioni e sanno raccontare la propria storia in un modo che è al passo con i tempi. L'altro invece è un brand nuovo, è un brand con una invece in tenera età, se vogliamo, che è Tesla, che è un brand che di fatto sta ispirando il cambiamento in un settore come quello automobilistico. E quello che è affascinante di questo brand è che pur trattandosi di un'azienda che è relativamente piccola rispetto ai colossi del settore, è il brand che nessuno può permettersi di ignorare, perché effettivamente sta cambiando le regole o probabilmente cambierà le regole non solo in ambito automobilistico ma probabilmente nel panorama più ampio di quelle che sono le soluzioni energetiche. Beh, insomma, una classifica che diventa un racconto anche delle nostre scelte di acquisto. Grazie a Manfredi Ricca per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. E allora grazie a Manfredi Ricca, ma torniamo a parlare di autunno, visto che abbiamo iniziato questo appuntamento in tema autunnale, che è un po' il leitmotiv di questo Sabato del Villaggio. Beh, potrebbe essere il tema del nostro appuntamento settimanale con la nostra Cristina Lazzati. Ciao Cristina! Buongiorno, buongiorno a tutti! Allora, hai qualcosa di autunnale questa settimana per noi? Beh sì, l'armadio da cambiare. Oh, quanto ci piace, che bel momento, che momento intenso dell'anno! Non so chi ci ascolta, ma qui a Milano stamattina, come dire, la temperatura ha urlato: cambia il tuo armadio. Operazione non semplice, noiosissima in linea di massima, che però può trasformarsi anche in un buon modo per far rigirare il proprio armadio anche in armadi altrui. Come? Attraverso i swap party. Swap party che significa di fatto uno scambio, quindi il consiglio è mettetevi d'accordo con altri e altre che come voi si trovano davanti all'armadio da cambiare e mettete i famosi vestiti. Si dice che insomma che se dopo 3 anni un vestito non l'hai più messo è sicuro che non lo metterai più, quindi quelli piegateli, metteteli via, il vestito che vi è andato troppo stretto, quello che invece vi va troppo largo, mettetevi d'accordo con le vostre amiche o i vostri amici e una serata va nel baratto, così non buttiamo via nulla e anche il pianeta è più contento. Se però lo swap party diventa una cosa troppo complicata da fare, c'è una simpatica applicazione che si chiama appunto Swap Party, funziona esattamente come tutti i social network, per cui una volta scaricata l'app ci si registra e dopodiché si può registrare anche con Facebook, si fotografa il capo, si mette il prezzo e tra i vostri follower nuovi o quelli che andrete a cercare seguendoli come nella stessa logica dei social network, magari qualcuno vi farà un'offerta e vi metterete d'accordo privatamente per fare questo scambio. Può anche essere gratuito, nel senso io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra. Sempre pensando al cambio armadio, c'è anche la possibilità, mentre rimettete le cose dell'autunno, con un'altra app che si chiama Dress Up, potete fare la foto di tutti i vostri vestiti, questa app ve li incasella, ve li sistema per colore e dopodiché quelle mattine strane in cui uno non ha voglia di pensare come si deve vestire, potete avere già degli outfit pronti che vi siete preparati magari quando eravate più ispirati, attraverso andando a cercare tra le cose del vostro armadio, molto carina, è in italiano, è una delle poche perché ce ne sono anche altre ma sono quasi tutte a pagamento oppure con moltissima pubblicità. Qua la pubblicità non c'è e in linea di massima si può avere anche, come dire, la possibilità di avere una sorta di registro del proprio armadio. Mi piace. Così. Anche perché poi se ti rendi conto magari se hai comprato delle cose uguali o se hai intenzione di comprarle uguali, cose che a me capita. Ma il matching, l'abbinamento lo fa l'app? L'abbinamento lo fai tu, ma l'app ti consiglia e ti guida per colore. Come su Tinder? Sì, più o meno così, più o meno okay. Così, okay. Solo che è un pochino più solitario. Grazie Cristina per essere stata con noi, al prossimo sabato. Grazie a voi e buon autunno a tutti. Grazie, buon cambio dell'armadio anche a Maria Luisa. Maria Luisa, poi l'appuntamento con Essere Avere? Domani alle 22 come sempre. E ciao, al prossimo Marta. Sabato, ciao.